Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziandovi per il cortese ascolto, ringraziando Cristiano Valli per la regia, vi confermiamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Salve a tutti.